Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, bentornati a questa edizione di Economia in pagina. Parliamo di libri di economia e inauguriamo questa nuova serie parlando di economia locale. E lo facciamo con Daniele Marini. Buongiorno Marini. Buongiorno a voi. Daniele Marini è direttore della Fondazione Nord-Est e ha curato con Silvia Oliva il 10° rapporto sulla società e l'economia, un volume Nord-Est 2009 edito da Marsilio. E ne parliamo anche con il dottor Gigi Montoli. Buongiorno dottor Montoli. Buongiorno a lei. Che ha realizzato il libro Dal cielo alla terra, addirittura potremmo dire, il titolo è Dal cielo alla terra, innovazione e sviluppo locale tra burocrazia e leadership, il caso Pesaro, edito da Rubettino. Io inizierei dal Nord-Est, anche per il fatto che il Nord-Est è una realtà in cui lo sviluppo si è consolidato, ha vissuto negli ultimi periodi insieme a una crisi, alla crisi globale, anche una crisi locale. E allora con Daniele Marini farei il punto sulla situazione economica del Nord-Est, anche ovviamente sulla base di questo rapporto. A che punto è l'economia del Nord-Est? Daniele Marini. Ovviamente anche il Nord-Est risente della crisi globale, lo risente a maggior ragione perché questo è un territorio dal punto di vista economico che negli anni ha sempre avuto una grande capacità di spostarsi sui mercati esteri e quindi essendo la crisi globale è chiaro che qui se ne risente in misura maggiore. Però bisogna anche dire che la capacità di tenuta continua a essere una delle caratteristiche di questo territorio anche in questa fase. E questo si spiega perché la crisi in realtà accelera un insieme di processi che erano già in corso negli anni anche in questo territorio e che molto sinteticamente sono da un lato un processo di riorganizzazione delle imprese al loro interno ma anche nei confronti della filiera, delle loro filiere. E questo è stato dovuto al fatto che la competizione internazionale già a partire dagli anni 90 aveva cominciato a farsi sentire nei settori che erano quelli trainanti di quest'area e quindi ha costretto le imprese a fare un salto evolutivo. Un numero la dice lunga su questo e cioè che ogni media impresa di questo territorio ha relazioni con 274 subfornitori. E quindi queste imprese facendo un salto evolutivo hanno bene o male costretto anche le più piccole a fare altrettanto. Ecco, quindi come sottolinea un po' Andrea Tomat, presidente della Fondazione Nord-Est, presidente degli industriali veneti, nella premessa di questo libro, le aziende che hanno saputo riorganizzarsi, che hanno saputo rifocalizzare la loro attività, che hanno puntato sul capitale umano, adesso possono approfittare, anche possono avere questa crisi come un'opportunità per fare nuovi passaggi di crescita? Sì, chiaramente anche queste risentono delle difficoltà di questo momento, ma sono più attrezzate rispetto ad altre per affrontare il guado che abbiamo davanti. Questo perché in questi anni hanno da un lato elevato il valore aggiunto dei prodotti che realizzavano e dall'altro perché hanno introdotto innovazioni non solo nel campo tecnologico ma anche proprio organizzativo, commerciale, nei rapporti con la filiera. Un altro dato la dice lunga, tra le imprese che hanno rapporti con i mercati esteri ben il 35% ha una propria rete commerciale presente nei paesi esteri, questo perché hanno capito che non è sufficiente fare un buon prodotto punto, ma è necessario arrivare fino al cliente finale, quindi organizzando tutta la filiera produttiva. Ecco, adesso ci allarghiamo un po' dal Nord-Est seguendo la via Adriatica, guardando il caso Pesaro con Gigi Montoli, che è stato dirigente di multinazionali, è stato fondatore e amministratore di una società, la Retis, Rete per lo Sviluppo e l'Innovazione. Il caso Pesaro, Pesaro è una delle città appunto rappresentative di quella che era chiamata, che è ancora chiamata la via Adriatica, dove così come il Nord-Est si è realizzato un po' uno sviluppo basato sulle piccole e medie imprese e su una forte integrazione tra pubblico e privato, tra politiche pubbliche e private. Come sta la realtà di Pesaro, Gigi Montoli? Allora, rispetto alla crisi comunque in parte ne risente ma soprattutto solo e prevalentemente un segmento che è quello della metalmeccanica, per il resto invece la situazione è abbastanza, come dire, tranquilla, nel senso che non sta creando situazione negativa. Certo, questo è merito sicuramente della capacità degli operatori locali, degli imprenditori. Lì c'è a Pesaro c'è una storia molto bella che risale ai tempi in cui la famosa via dello sviluppo adriatico, che fu uno dei modelli dello sviluppo italiano. Però c'è, come diceva giustamente lei in premessa, è stata una fortissima e c'è tuttora una fortissima integrazione con l'ente pubblico. Lì l'ente locale gioca e ha giocato un ruolo assolutamente fondamentale, sia prima, quindi addirittura dobbiamo tornare indietro di parecchi anni anticipando quello che poi è stato un po' lo spirito e l'indicazione della riforma della PA. Quindi da questo punto di vista la situazione è migliore, ma è migliore anche grazie proprio a questa integrazione tra pubblico e privato. Ecco, questa è la vera forza forse di quel territorio. Questa integrazione ha avuto un valore nel promuovere l'attività industriale, nel dare delle basi all'attività imprenditoriale, ma ha anche una funzione nel sostenere questa attività, nell'aiutare le ristrutturazioni necessarie dato il profilo industriale e produttivo? Ecco, questo un po' meno. Nel senso che la funzione forse principale è quella di aiutare, supportare e assistere tutti gli operatori, quindi dal punto di vista dell'attivare concretamente iniziative, risorse o comunque anche politiche sul versante dell'attività vera e propria industriale, molto meno. Certamente però lavora molto, diciamo, sugli aspetti infrastrutturali da un lato e sul sistema di relazioni, questo sicuramente. Ecco, io vorrei chiedere a Daniele Marini se sul fronte del Nord-Est questa realtà appunto di integrazione pubblico-privato può essere confortata dai fatti e se un ruolo del pubblico, il ruolo della regione sotto un certo profilo, dei comuni, può avere un ruolo appunto nel sollecitare la ristrutturazione delle imprese e nell'avviare una nuova fase di sviluppo della realtà locale. Daniele Marini. Direi di sì, giocano, chiaramente non sono gli unici attori o gli unici soggetti, ma sicuramente possono contribuire in modo significativo, tenendo presente poi che nel Nord-Est abbiamo tre realtà, tre istituzioni regionali diverse fra di loro. Il Trentino Alto Adige, come noto, ha una grande autonomia, tant'è che il presidente dell'AI l'anno scorso e si sta accingendo quest'anno a fare due manovre finanziarie di assoluto rilievo per la provincia di Trento a sostegno proprio dell'economia, e quindi chiaramente lì c'è una capacità del pubblico di intervenire notoriamente in modo significativo. Diverso ancora è il caso del Friuli Venezia Giulia, e il Veneto invece, come noto, è una realtà regionale a statuto ordinario e quindi gli strumenti sono inferiori. Ciò non di meno, questo non significa che le istituzioni regionali e gli enti locali non si sono mossi in questi mesi, in questi frangenti. Ricordiamo che da un lato c'è stato un allargamento con accordi a livello locale sull'allargamento degli ammortizzatori sociali, la cassa integrazione in deroga, piuttosto che altri sostegni alle famiglie sono stati anche sotto profilo dei consumi, sono stati largamente utilizzati. E questo ha concesso, per esempio, il fatto che il tasso di disoccupazione nel 2009 non abbia superato la soglia del 5%, quindi ancora una soglia fisiologica. L'aiuto in questo caso, pensiamo al Veneto, in questo caso per il sostegno alle imprese va, a mio modo di vedere, soprattutto sui temi della realizzazione delle infrastrutture. Questo è e dovrebbe potrebbe essere sicuramente un volano per aiutare le imprese che già da sole sono tradizionalmente impegnate a fare innovazione a rilanciarsi ed essere competitivi sui mercati. Ricordiamo che qui in Veneto, giusto appunto l'anno scorso, è stato realizzato finalmente il passante di Mestre, che non è soltanto una riga di autostrada che si apre, ma attorno a questo significa creare e dare la possibilità alle imprese di spostare le proprie merci con maggiore facilità, ovviamente. Certo, le infrastrutture sono un elemento di base per la crescita economica. Il passante di Mestre è un'opera storica, se ne è parlato per decenni. Ora che è realizzato, sicuramente permette una riqualificazione territoriale, uno sviluppo certamente più dando vivacità, dando forza ai vari fattori. A Pesaro addirittura parlano di collegare il cielo alla terra. Infatti Dal cielo alla terra si chiama questo libro curato da Antonio Mezzino e Gigi Montoli. Gigi Montoli, perché Dal cielo alla terra? Perché sostanzialmente, come dire, la metafora voleva rappresentare che cosa si è realizzato in concreto rispetto alle dichiarazioni di principio della riforma della pubblica amministrazione. Quindi questo è il valore, come dire, della metafora, anche, come dire, la spiegazione di quella metafora. Cioè, in realtà i principi, la filosofia e tutti gli obiettivi che la riforma della PA si proponeva di realizzare, in molte parti d'Italia praticamente questo non è avvenuto, o è avvenuto molto molto poco. A Pesaro si è realizzato quasi completamente, si potrebbe dire tranquillamente che è stata addirittura anticipata in alcuni obiettivi che si proponeva. Quindi questo è il senso della metafora. Quindi in qualche modo a Pesaro si è realizzata un'autonomia locale quasi da statuto speciale, da regioni con ampia autonomia. Certo, è un caso di eccellenza. Noi abbiamo scritto questo libro perché si sappia più che altro, perché in effetti, come tutti ben sappiamo, in Italia si tende a parlare molto, moltissimo delle cose negative, poco, pochissimo, niente delle cose positive, in particolare se a realizzarle contribuisce anche la pubblica amministrazione. Grazie, io vi ringrazio. Ringrazio Daniele Marini, che ha curato il rapporto Nord-Est insieme a Silvia Oliva, ora pubblicato dalle edizioni di Marsilio, Nord-Est 2009, un volume di 460 pagine che fa una fotografia anche qui ottimistica, devo dire, nel fondo, in sottofondo, della realtà del Nord-Est. Ringrazio Gigi Montoli, che ha curato insieme ad Antonio Mezzino il libro Dal cielo alla terra, innovazione e sviluppo locale tra burocrazia e leadership, il caso Pesaro, edito da Rubettino. E ringrazio in regia Filippo Auriegi, redazione Anita Panizza. Ringrazio anche quanti ci hanno ascoltato. L'appuntamento è per sabato prossimo.